I giocattoli dimenticati. Cocò, il canguro di peluche, si sedette sul pavimento accanto alla grande pattumiera grigia. Singhiozzava e la sua lucida pelliccia si scuoteva tutta. «Salve! Perché piangi?» disse una vocina. Cocò alzò gli occhi e vide una bella bambolina di pezza che lo guardava attraverso una cascata di riccioli rossi. «Oh, dovevo essere il miglior regalo di Natale di un bambino, ma non gli sono piaciuto. Così mi hanno gettato qui perché lo spazzino mi porti via. Oh, come vorrei avere una casa!» E tirava su col naso. «Non prendertela. Vedi? Anch'io dovevo essere il più bel regalo di Natale di una bambina, ma non le sono piaciuta perché non sono bruna e non dico mamma. Nemmeno io ho una casa.» «Come ti chiami?» chiese Cocò. «Rarà», rispose la bambola di pezza. «Scappiamo insieme, vuoi?» «Sì, sì, sì. Potremmo fare lunghi viaggi ed avere un sacco di avventure. I canguri sono dei grandi saltatori, sai?» Rarà saltò in groppa a Cocò e insieme avanzarono a balzi lungo la strada. Era tardi. Le case erano tutte sprangate e i bambini dormivano profondamente nei loro lettini. «Fa freddo, vero?» disse Cocò. «E che silenzio!» aggiunse Rarà. Tutti e due avrebbero desiderato essere al calduccio sotto le coperte, come i bambini. «Cerchiamo un posto per dormire», propose Rarà. «Va bene», rispose Cocò, e si diresse saltellando verso uno stretto vicolo. «Hop! All'improvviso, una figuretta nera atterrò proprio davanti a loro. Era un gatto. «Salve! Non capita spesso gente a quest'ora nel mio vicolo. Io mi chiamo Fritz, e voi chi siete?» «Io sono Rarà, la bambola di pezza, e questo è il mio amico Cocò, il canguro di peluche. Siamo dei regali di Natale indesiderati.» «Proprio così», fece eco tristemente Cocò. «Allora abbiamo pensato di andare in cerca di avventure, anche se avrei preferito essere un regalo di Natale gradito. Possiamo rimanere qui per stanotte?» chiese Rarà. «Oh, certamente, io starò fuori tutta la notte, così ci vedremo domani mattina. Buonanotte!» fece l'occhiolino e corse via. Cocò e Rarà si rannicchiarono e si addormentarono. Al mattino presto vennero risvegliati da Fritz, che aveva l'aria molto compiaciuta. «Seguitemi, ho trovato il posto adatto per voi due.» Rarà montò sulla schiena di Cocò e seguirono Fritz per stradine e stradone fino ad arrivare ad un grande edificio in una piazza. «Che casa grande!» disse Cocò. «Non è una casa, è un ospedale. Aspettate qui un momento.» Fritz fece l'occhiolino e scomparve. Dopo un po', i due giocattoli udirono dei passi e videro una donna con un uniforme azzurra e un lungo grembiule bianco. «Guarda, guarda! Qualcuno ha lasciato qui questi bellissimi giocattoli! Che gentilezza! Come saranno felici i bambini!» Si chinò, prese in braccio Cocò e Rarà ed entrò nell'ospedale. «Guardate! Un canguro di peluche!» gridarono i bambini. «E una bambola di pezza! Come sono belli!» Cocò e Rarà si guardarono felici. «Finalmente a casa!» disse Cocò.